Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Questa mattina l'argomento è più che mai di attualità. La morte di Osama Bin Laden sta portando un po' di movimento sui mercati, anche se bisogna valutare, già qualche analista lo dice, se si tratti di una reazione emotiva ed estemporanea, come appunto stanno già dicendo in molti, e appunto questo movimento sui mercati, ma anche un calo pronunciato e generalizzato dei prezzi delle materie prime. Sotto i riflettori, dalle prime ore, i metalli preziosi. Dopo il record a $1,576 l'oncia toccato venerdì, stamattina l'oro ha ritracciato sensibilmente quotando sui $1,550 l'oncia, così come ha fatto l'argento, che comunque in questo periodo, nonostante il calo di stamattina, sta mantenendo i suoi rialzi viaggiando sui massimi da 30 anni a questa parte. Il tema ci cade proprio nella giornata in cui per Salva Danaio avevamo programmato di parlare di prezzi delle materie prime, ma di quelle alimentari e di come questi rincari si stanno trasferendo sulla tavola degli italiani. Stanno pesando le solite questioni delle quali discutiamo sempre. L'enorme domanda che arriva da India e Cina, ma persino il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi recentemente ha lanciato l'allarme, le prospettive economiche stanno migliorando ovunque, ma il boom dei prezzi delle commodities agricole sta portando a soffrire molti dei paesi più poveri del mondo, perché magari se aumenta il prezzo del grano e quindi del pane, una famiglia italiana magari ce la fa ancora a sostenere il rincaro, difficile che lo stesso si possa dire per una famiglia africana. Però in ogni caso oggi noi, oltre a fare un giro di prezzi di materie prime ad esaudire le vostre curiosità in termini generali, ci occuperemo anche della tavola degli italiani per capire come questa sta cambiando in virtù della tendenza dei prezzi delle appunto cosiddette commodities. Con noi quest'oggi Maurizio Mazziero, analista finanziario esperto di materie prime. Mazziero, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ivan Nardone, Dipartimento dello Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA Nazionale. Dottor Nardone, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radiospettatori. Stefano Crippa, responsabile delle relazioni esterne di Feder Distribuzione. Crippa, bentornato, buona giornata. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Negli studi di Radio 24, come qui a Milano, Gianni Cavinato, presidente dell'ACUR, Associazione Consumatori Utenti, benvenuto. Buongiorno a tutti. Bentornato, grazie. Anzi anche a lei. Allora, se l'argomento vi appassiona, se volete togliervi qualche curiosità, se volete esprimere delle considerazioni ai nostri microfoni, potete farlo all'800240024 per intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci i vostri messaggi al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, siccome i temi fondamentali di borsa li ho già dati, perché sono quelli di cui parleremo a Salva Danaio, vi dico solo che i mercati azionari, con l'eccezione di Londra chiusa per il Bank Holiday, oggi viaggiano in positivo, ma la reazione delle prime battute si è già stemperata. Rimane solo su Francoforte che guadagna lo 0,84%, Parigi più 0,30%, Milano più 0,15%, migliori titoli Fiat più 2% in attesa dei dati sulle matricolazioni che saranno diffusi stasera, l'automatica più 1,46%, Pirelli più 1,20%, Banco Popolare più 1,20%, Autogrill più 1,14%, Mediaset più 0,90%, mentre accusano dei ribassi generalizzati alcune banche, Intesa meno 0,45%, UbiBanca meno 0,08%, i peggiori sono però TOTS meno 1%, STM meno 1%, Buzzi Unice, Medenel Green Power in ribasso dello 0,55%. Euro su dollaro 1,48,38, molte materie prime sono continuate a correre anche per effetto del dollaro, che invece ha avuto una tendenza contraria rispetto a tutte le altre divise internazionali, ma rifacciamo un po' il riepilogo sull'andamento dei prezzi delle materie prime recente. Commodity e inflazione. Un binomio che oramai sembra procedere di pari passo. L'aumento dei prezzi al consumo che si sta registrando a livello globale, infatti, nella maggior parte dei casi è la conseguenza diretta della crescita dei valori delle materie prime che incidono sui costi dei prodotti finiti, oltre che sui prezzi di benzina e riscaldamento, e non ultimo sui generi alimentari. Dopo un decennio di quotazioni sostanzialmente stabili, a partire dal 2006 i prezzi delle commodity agricole hanno di fatto sperimentato un vero e proprio boom, Un fenomeno in parte dovuto al fatto che i mercati delle materie prime sono dominati da pochi grandi player, ma soprattutto perché le commodity vengono da sempre percepite come beni rifugio, nei quali gli investitori tendono a rifugiarsi quando sui mercati prevale l'incertezza. E negli ultimi mesi le tensioni geopolitiche a livello internazionale, le problematiche sui debiti sovrani e i disastri naturali hanno favorito questo fenomeno. Una prospettiva messa in luce dalla stessa FAO nelle scorse settimane, che ha posto in risalto i rischi di un mancato accesso ai beni primari per molti cittadini dei paesi emergenti e in via di sviluppo. Ma anche dallo stesso governatore della Banca d'Italia Draghi, che ha lanciato l'allarme sul boom dei prezzi alimentari. Fattori che sulle tavole degli italiani sembrano aver già manifestato i propri effetti. Se latte, formaggi e frutta sono aumentati a marzo del 3-4% rispetto all'anno scorso, ben vengano allora pollo, carne suina, surgelati e olio. Anche se a quanto pare adottare un menù differente potrebbe non bastare. Le associazioni dei consumatori, infatti, hanno stimato ricadute sui portafogli di circa 330 euro all'anno per famiglia. Questa è una stima di Federconsumatori Cavinato. Vengo subito a lei in qualità di rappresentante stamattina dell'Associazione dei Consumatori. Avete già stimato come questa situazione potrà pesare sulle tasche degli italiani? Poi cercheremo di valutare un po' più dettagliatamente le tipologie di ricadute, ma insomma il portafoglio soffre non tanto perché aumenta il prezzo del pane, del grano e della pasta, anche se quello poi in maniera limitata, quello del latte e del formaggio un po' di più a marzo abbiamo detto, ma perché sono i redditi che sono un po' più compressi del passato. Certamente sì, nel senso che se fossimo in una situazione di crescita economica, di avanzamento dell'occupazione quantomeno, insomma, no? Piuttosto che statica o peggio che diminuisce, è evidente la situazione peserebbe meno. Però quello che voglio sottolineare è questo, che questo tipo di inflazione che abbiamo adesso, diciamo così, cioè questo rincaro delle materie prime con tutto ciò che ne consegue, quindi dall'energia ai prodotti anche di largo consumo come gli alimentari, appunto è un'inflazione globale, mondiale, cioè noi importiamo anche l'inflazione, non importiamo soltanto delle derrate alimentari da questo o quel paese, ma importiamo anche la loro inflazione, importiamo l'inflazione della Cina piuttosto che di altri paesi, e questo è importantissimo farlo rilevare, perché condivido l'allarme del governatore Draghi, perché le reazioni o le azioni da fare non possono che essere internazionali, non basta un intervento nazionale. Quanto questo inciderà sui nostri portafogli? Beh, diciamo che se già il caro benzina, diciamo così, può arrivare, è arrivato in questi mesi all'aumento del più del 10%, grosso modo un terzo di questo rincaro, di questo aumento, può tranquillamente ricadere sui prodotti alimentari. Quindi probabilmente a fine anno potremmo avere, diciamo, anche un'inflazione che può superare il 2,5%, come adesso si stima, cioè si è valutato a parte dell'Istat, e quindi saranno anche i più di 300 euro all'anno, perché 300 euro all'anno significa più o meno il 2%. Anche perché poi un po', come dire, l'abitudine alimentare si può modificare, ma per certi aspetti la domanda è abbastanza rigida, brava, è molto rigida. Per cui ecco, grossi cambiamenti non si possono fare. Volevo andare subito a Maurizio Mazziero, perché lo dicevamo anche nella nostra scheda, sicuramente questa tendenza dei prezzi delle materie prime è stata determinata dalla crisi economica, da molta speculazione, da capitali che si spostano in questo settore perché non trovano in altre asset class un'adeguata remunerazione. Però mi chiedo, va bene definire l'oro, l'argento come dei beni rifugio, l'alluminio, il rame, ma addirittura dare questa definizione al grano, al riso, al cacao, al caffè ci sembra una situazione quantomeno meno originale. Maurizio Mazziero. Sì, sicuramente questo è un aspetto che andrebbe valutato. C'è da dire una cosa, che le asset class, quando siamo in presenza di inflazione, comunque vengono erose dall'inflazione, cioè noi ci troviamo che l'inflazione va a erodere quelli che sono i potenziali rendimenti sia delle asset class tipo obbligazioni che azionari. Però io sul discorso della speculazione, di cui si fa tanto parlare, ho un'opinione un po' contrastante, nel senso che sicuramente il flusso di investimento, il flusso di denaro nel breve termine va a influire, quindi a portare della volatilità, mentre invece nel medio e lungo termine stiamo parlando esclusivamente di domanda e offerta. Allora la CFTC, che è la commissione di regolamento dei future americani e la Commissione europea non hanno trovato un legame tra gli alti prezzi, ad esempio, che ci sono stati già nel 2008 del petrolio con la speculazione, cioè non è stato trovato un legame diretto fra queste cose. E bisogna pensare che, eccetto l'investimento nei metalli preziosi, quindi oro, argento, platino e palladio, dove effettivamente il flusso di investimento si traduce in un segregare dei lingotti di metallo prezioso in un cavò, per tutto il resto stiamo sempre parlando di domanda e offerta, perché altrimenti noi dovremmo domandarci come mai aumenta anche il ferro che non è quotato nei mercati finanziari, oppure le terre rare, oppure potremmo dire, non so, la barbabietola piuttosto che altre materie prime. Quindi sul discorso in realtà si fa tanto parlare di speculazione, potrebbe essere uno specchietto per all'odola. In realtà... Allora, torniamo ad approfondire appunto le sue teorie, le sue convinzioni. Di fatto non credo proprio che, per esempio, il settore oppure la categoria degli agricoltori sia d'accordo su questa visione. Io volevo solamente, tra l'altro già fra un po' devo andare in pausa, magari il dottor Nardone della CEI lo sentiamo dopo, ma vorrei raccontare ai nostri ascoltatori che il prezzo del grano, che oggi viaggia sui 7,4 dollari al bushel o bushel, a seconda di come vogliamo chiamare l'unità di misura, ma il prezzo del grano oggi è inferiore del 42% rispetto al suo massimo storico, che era stato raggiunto nel marzo del 2008. Quindi questa potrebbe essere una buona notizia. Oggi siamo a valori inferiori della metà rispetto ai massimi livelli del marzo appunto del 2008, quando tutto viaggiava sui massimi, come per esempio succedeva per il petrolio. Il tema è che però c'è un'oscillazione fortissima delle quotazioni del grano, che negli ultimi 3 anni appunto sono crollate da 13 dollari per bushel del febbraio 2008 a 5 dollari per bushel del febbraio 2009, 6 dollari per bushel del febbraio 2010, per poi risalire ai 7,5 attuali. Quindi comunque una volatilità enorme c'è, e quindi bisogna capire se questo è riconducibile a fenomeni speculativi o meno, perché credo che la categoria degli agricoltori sia convinta di questo. Nardone, la sento dopo se per lei va bene, devo andare in pausa. Benissimo. D'accordo, grazie. Così come sentirò dopo Stefano Crippa di Feder Distribuzione. 800 24 00 24 per i vostri interventi. Ci sentiamo tra pochissimo. Salva Danaio questa mattina parla di materie prime. Abbiamo visto quello che è successo questa mattina sui mercati dopo l'annuncio della morte di Osama Bin Laden, una forte correzione da parte del prezzo dell'oro e dell'argento, che poi tra l'altro ancora non ho chiesto per quello che riguarda le motivazioni a Maurizio Mazziero, ma poi mi lascio da parte anche questa domanda. Noi oggi in realtà volevamo focalizzare l'attenzione sull'andamento dei prezzi delle materie prime agricole, di quelle alimentari, delle commodities alimentari, perché naturalmente c'è stato intanto un allarme lanciato qualche settimana fa dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che ha detto attenzione, l'economia si sta riprendendo, lo sta facendo molto lentamente, ma il sentiero è tracciato, e però c'è questa situazione da monitorare, perché sta portando in una situazione di maggiore difficoltà i paesi soprattutto del sud del mondo. E poi molti colleghi giornalisti si sono subito affrettati a fare anche una relazione su quello che è il cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani, cambiamento determinato dalla crisi finanziaria, dalla perdita di molti posti di lavoro, da un reddito che non entra più e che non copre più tutto il mese, come si sa. Pertanto molti cambiamenti sono riconducibili soprattutto a quell'aspetto, non tanto al fatto che il grano costa più o meno, così come il riso, così come il cacao, il caffè e quant'altro. E però è una situazione da monitorare. Allora, Ivan Nardone, Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della CIA nazionale, la Confederazione Italiana Agricoltori, i vostri colleghi della Coldiretti hanno detto che l'andamento delle quotazioni dei prodotti agricoli è sempre più fortemente condizionato dai movimenti di capitale che si spostano con sempre maggiore facilità dai mercati finanziari a quelli dei metalli preziosi come l'oro, fino alle materie prime come grano, mais e soia. Siete anche voi di questo avviso, perché l'esperto di commodities diceva che in realtà la speculazione sul settore non c'è, comunque non c'è completamente. Ovviamente siamo molto più vicini alla posizione di Coldiretti che alla posizione del dottor Mazziero. Pensiamo anche noi che dopo la crisi crollo delle borse, la crisi dei subprime americani, c'è stata una quantità di denaro impressionante verso le materie prime in genere, tra cui anche le materie prime agricole. E non lo diciamo solo noi e col diretti, ma il presidente Sarkozy, c'è un prossimo G20 convocato a Parigi che ha all'ordine del giorno proprio le speculazioni sulle materie prime agricole, quindi questo è un dato di fatto che testimonia come c'è preoccupazione da parte anche dei capi di Stato dei maggiori paesi industrializzati che pensano che questo sia un problema che vada affrontato e che c'è tanta speculazione sulle materie prime, tra cui quelle agricole. Certo, poi chiaramente una speculazione sono masse di denaro che si spostano in un settore che sicuramente avrà prospettive di crescita, quindi sicuramente gli investitori stanno maturando ecco queste scelte con la convinzione che Cina ed India continueranno ancora a sostenere questo mercato ancora a lungo. D'altronde lì ci sono miliardi di persone, in Cina soprattutto, che stanno modificando la loro alimentazione rendendola sempre di più, passatemi il termine, occidentale. Pertanto è, come dire, investire sulle materie prime un po' come una cassaforte. Quasi stavamo scherzando con Gianni Cavinato dell'ACO, dell'associazione appunto consumatori utenti, stanno diventando quasi i bot dei tempi moderni del mondo globalizzato. Le materie prime, d'accordo con questa visione? Sì, sì, sì, decisamente. Cioè, diciamo che è il futuro, no? Cioè, nel senso che il presente e il futuro allo stesso tempo. Mm. Mazziero, volevo tornare a lei. Ci ricorda come mai questa situazione sul grano si è maturata, anche se abbiamo ricordato come il prezzo del grano sia inferiore di circa il 40% rispetto ai massimi storici che erano stati toccati nel marzo del 2008. C'è stata anche la componente russa che ha molto movimentato questo settore nell'ultimo anno in particolare. Modo. Sì, questo senz'altro, infatti vorrei arrivare anche a quello che è il discorso climatico, però ecco, io devo ricordare che proprio l'anno scorso, quindi nel 2010, io ho fatto degli interventi in convegni di Italmopa, che è l'associazione che riunisce le aziende molitorie, come anche per la Confagricoltura, ecco, e in effetti io ricordo che tutti si lamentavano per il basso livello del frumento. Beh, allora a questo punto io sono convinto che il dottor Nardone sarà con me anche nel dire che se è stata l'inflazione, benedetta l'inflazione, che perlomeno riesce a portare ai coltivatori perlomeno a coprire i costi, perché da quello che mi dicevano non coprivano nemmeno i costi. Ma tornando alla partenza del prezzo nel 2010 è proprio stato dagli incendi di vaste porzioni di territorio in Russia. Però dobbiamo pensare che in realtà quello che noi stiamo vivendo è che c'è un acuirsi generalizzato dei disastri climatici. Mi riferisco ad esempio anche alle inondazioni in Australia, oppure talvolta troviamo delle siccità. Ecco, anche questo fatto che siamo continuamente pervasi dagli effetti del Niño oppure la Niña, anche questo sta mutando in maniera drammatica diciamo quelle che sono le condizioni, quindi poi quelle che sono le rese dei raccolti. A proposito di questo, vorrei anche dire, questo sicuramente il dottor Nardone me lo potrà confermare, c'è stata anche una risalita dei prodotti, del costo dei prodotti energetici e poi anche del costo dei concimi chimici. Quindi talvolta non si utilizzano o si utilizzano in misura inferiore i concimi chimici e le rese dei terreni diminuiscono e quindi diminuisce l'offerta. Non solo, ma dobbiamo anche dire che talvolta i margini dei coltivatori vengono spinti in basso dalla grande distribuzione e qui... Adesso qua andiamo subito da Crippa. Bene, insomma ce n'è per tutti, Mazziero, non fa solo l'esperto di commodities, ma anche adesso di come poi tutti quegli effetti che si verificano sui mercati si traducono nelle abitudini quotidiane. Allora, Nardone, è stato evocato più volte, adesso vengo a lei, gli eventi climatici, insomma non è che da un anno ad un altro poi il clima ci presenti dei fenomeni, certo non ci sono tutti gli anni un devastante terremoto come quello giapponese con un relativo tsunami, però insomma il Niño, la Niña, come li chiamava Mazziero, ci sono frequentemente. Quanto di questo fenomeno della volatilità del prezzo del grano è riconducibile anche alla variazione meteorologica costante in molte parti del mondo? Sicuramente tanto. ha ragione il dottor Mazziero su questo, ovviamente. Dopodiché, però, su questi fenomeni si spinge anche la speculazione, perché non è che gli speculatori o gli investitori non sappiano se c'è stato o meno la siccità in Russia, la sanno benissimo e siamo i primi a dirlo, che in Russia nel 2008 si producevano 108 milioni di tonnellate di cereali, siamo arrivati a 44 milioni, hanno bloccato l'esportazione e di conseguenza c'è una penuria di cereali nel mondo. È qui che interviene anche la speculazione, su cui investe fortissimo, e quindi vi è un aumento del prezzo delle derrate agricole. È ovvio che i cambiamenti climatici oggi è una questione con cui dobbiamo convivere, che saranno sempre più drammaticamente presenti sulle nostre vite, sulle nostre tavole, sui nostri risparmi. Questo è un fenomeno ovvio che pesa tantissimo, però nonostante quello che c'è stato in Russia, Ucraina, Kazakistan o in Igni o la Nigna, l'anno scorso noi abbiamo avuto una produzione mondiale di cereali molto significativa, di 2 miliardi e 380 milioni di tonnellate di produzione. Il fatto che invece a questo aumento delle produzioni, che sono tantissime, vi è un aumento, questo aveva ragione il dottor Mazzieri, di consumi, soprattutto perché vaste aree del pianeta stanno uscendo da un'agricoltura di sussistenza, da una dieta di sussistenza, e viva Dio, stanno migliorando la propria dieta alimentare. Infatti. Allora, Stefano Crippa, responsabile area relazioni esterne di Feder Distribuzione, ricordo anche agli ascoltatori che ci possono chiamare all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Devo dire che ascoltatori diversi ci stanno scrivendo, chiedendo che fine ha fatto Mister Prezzi, e questa domanda poi ci faremo rispondere da Gianni Cavinato, che frequenta spesso i ministeri a Roma, soprattutto quelli che riguardano appunto l'attività e le relazioni con le associazioni dei consumatori, e gli chiederemo se lo incontra e che tipo di esame sta facendo anche della situazione attuale, magari relativamente al tema che affrontiamo questa mattina. Crippa, allora, al banco del supermercato, pasta e pane come si stanno comportando relativamente all'andamento molto volatile delle quotazioni del grano, e poi come mai in marzo c'è stato un aumento di circa il 3% delle quotazioni di latte, formaggio e frutta? Ma guardi, per i prezzi sul supermercato in questo momento sono tutto sommato ancora contenuti, perché è vero che ci sono stati questi aumenti importanti delle materie prime durante la fine dell'anno scorso, e ancora adesso i prezzi della produzione stanno crescendo del 5-6%. Però complessivamente noi in questo momento nei supermercati stiamo registrando un'inflazione che è intorno all'1% come media generale di tutti i prodotti. Certo, poi ci sono delle punte, i formaggi, il latte, come abbiamo detto, stanno crescendo del 3-4%, però per esempio la pasta è ancora in fase di diminuzione, siamo circa un 2% in meno. È stato anche pubblicato sui giornali che la frutta stanno ricominciando a scendere. E poi ci sono tutti i prodotti che in questo momento sono, diciamo, non alimentari, quindi non toccati dal discorso delle commodity alimentari, che sono ancora in fase calante. Quindi in questo momento l'impatto dei prezzi sulla spesa delle famiglie credo che sia ancora contenuto. Bisognerà vedere cosa succede nei prossimi mesi, perché indubbiamente la grande distribuzione in questo momento deve far fronte all'aumento dei listini che stanno arrivando da parte dei fornitori, e quindi in qualche modo nei prossimi mesi questo si ripercuote. Quindi ci preannuncia rincari che riguarderanno soprattutto che tipi di generi? Sono quelli che sono in aumento in questo momento, quindi quelli che fanno riferimento alle materie prime legate appunto al latte, cereali. Però io credo che siano aumenti che saranno contenuti soltanto in alcune categorie, quindi l'effetto complessivo noi stimiamo che non sia devastante per quello che riguarda le famiglie, che potrà essere intorno al 2-2,5% complessivamente, con la speranza poi che nella seconda metà dell'anno, perché appunto credo che le informazioni che arrivano, raccolti, qui abbiamo parlato tanto di raccolti di grano, di cereali nel mondo, quest'anno dovrebbero essere dei buoni raccolti, quindi la speranza è che anche ci sia un rientro di questa infiammata delle materie prime nella seconda parte dell'anno, e quindi questa punta che potrà registrarsi magari nei prossimi mesi poi vada a calare. Vada a ridimensionarsi successivamente. Sì, Gianni Cavinato, è d'accordo con questa visione o come associazione dei consumatori siete più preoccupati? No, siamo decisamente più preoccupati, anche perché, come dire, in questa situazione di crisi, parliamoci chiaro, insomma, no, di crisi vera, generalizzata, insomma, perché questa inflazione ce l'ha il cinese, ce l'ha anche l'italiano, insomma, questo è il discorso. Quindi ci chiediamo quali sono gli strumenti a livello internazionale che possono essere messi in campo per poter mettere la barra dritta, insomma, sostanzialmente di questo tipo di situazione. Quindi non non basta l'aumento della produzione, che auspichiamo che ci sia ovviamente, ma ci deve essere anche ci devono essere anche delle decisioni che in qualche maniera rafforzino gli stati e i governi nazionali o a livello europeo, la comunità europea, l'Unione Europea, affinché, come dire, la butto lì proprio in senso provocatore del termine, cioè un po' di scorte gli stati le devono avere, insomma, diciamo così, no? Non perché devono diventare attori del mercato, ma perché in qualche maniera devono assicurare la sicurezza alimentare, la sovranità alimentare dei propri popoli, insomma. Quindi in questo senso, diciamo così, ci deve essere più accortezza. L'altra cosa che si potrebbe fare è cominciare a dire meno carni, cioè meno alimentazione di vegetali per gli animali, mm-hmm, e più vegetali, diciamo così, per gli umani. Sostanzialmente c'è una tendenza a livello internazionale per cui molti di questi vegetali, cereali che vengono prodotti, vengono destinati agli animali di allevamento. Bisogna ridimensionare, come dire, la domanda di proteine animale. C'è chi ne mangia troppo e chi non ne vede proprio, insomma. Quindi in questo momento è la media di Trilussa, esattamente, però diciamo che chi ne mangia troppo dovrebbe decisamente diminuirne. Questi sono anche dati nutrizionali, insomma, mi occupo anche di questi aspetti, insomma. Quindi sinceramente c'è bisogno di un nuovo equilibrio, diciamo così. E lo so, questo però è un discorso, come dire, di molto più vasto raggio. Noi stamattina dobbiamo ricondurre la discussione nei binari delle abitudini delle famiglie medie italiane, soprattutto di come le loro abitudini alimentari possano degnamente relazionarsi con i redditi che percepiscono, che sono quelli che sono, e poi ovviamente ad un certo punto molte famiglie, anche che già hanno a che fare con i problemi personali, sono strette anche nella morsa delle speculazioni finanziarie delle quali non hanno alcuna responsabilità. Ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi volevo ritornare a Maurizio Mazziero, al quale invece voglio chiedere un commento sull'andamento dei prezzi di questa mattina di oro e argento, perché c'è un ascoltatore che ci chiede: ma la candela nera di stanotte può aver iniziato lo scoppio della bolla sull'argento? D'altronde dollaro e tassi, ha ragione, dovranno risalire. Salutiamo Duccio da Firenze. Mazziero, poi con lei partiamo da qui. Allora, Maurizio Mazziero, poi tanto a dire che la speculazione non c'è, naturalmente il mercato oggi colazionario si disinteressa abbastanza allegramente della morte di Osama Bin Laden, mentre c'è stata una reazione abbastanza vistosa da parte dell'oro, che è subito calato dopo il record di venerdì scorso. L'argento non ne parliamo, viaggiava anche questo sui massimi dagli inizi degli anni 80. Come mai questa mattina questa marcia indietro così dirompente? Ecco, volevo tornare un attimo però, proprio un piccolo accenno, che di tutto quello che noi abbiamo parlato sinora però sugli alimentari non abbiamo parlato dell'utilizzo delle culture per biocombustibili. E il mais, perché, per esempio, uno di questo. Non mi risponde prima all'altra domanda, sì, Mazziero, poi ritorniamo al mais. Sì, allora, dunque, in realtà, allora, l'argento è sicuramente una materia prima che quando si muove lo fa, e lo fa in maniera molto, ma molto violenta. Era da molto tempo che saliva, è arrivato vicino a sfiorare la quota dei $50 l'oncia, e qui è stato un po' un segnale di vendita. Io non credo che la notizia della morte di Bin Laden abbia in qualche modo condizionato questo andamento. Diciamo che lì c'è stata una presa di beneficio, tra l'altro adesso è in recupero, l'oro è sulla parità. Io non vedo notizie particolari su questo, quindi... Vabbè, credo... come al solito forziamo la mano noi giornalisti, insomma, vediamo un calo di $20-25 su un prezzo di una materia prima, enfatizziamo nella notizia, dice, non c'è una motivazione, c'è la tendenza di fondo, rimane comunque rialzista. No, direi che questa è una reazione psicologica, diciamo, che una presa di beneficio, si è arrivati a sfiorare... Si è arrivati, ci voleva la notizia giusta per poter far incassare un po' di denaro a chi ci aveva guadagnato un po' negli ultimi giorni, quindi poi riprenderà la tendenza consolidata. Guardi, è successo tutto in un quarto d'ora ieri alle 17:25 di Chicago, tra l'altro con scarsi volumi, con 300 contratti nel giro di questo quarto d'ora, voglio dire, è stata probabilmente, sono saltati quelli che si chiamano i livelli di salvaguardia, gli stop loss, e quindi questo è un po' l'effetto, insomma. Siamo andati anche alla terminologia tecnica per appunto spiegare quello che è successo sui mercati delle materie prime dopo la notizia della morte di Osama Bin Laden. Allora, Nardone, ha toccato Mazziero il tema dei biocombustibili e di quali materie prime vengono utilizzate appunto proprio per garantire anche questa produzione. Credo che il mais sia all'interno di questa rosa di prodotti. Questo è un settore che voi monitoriate proprio per questa, monitorate per questa problematica, Nardone di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Ovviamente i biocombustibili pesano molto sullo scenario mondiale, sulla produzione di cereali, soprattutto per il mais. che incrociato a quello che sosteneva prima Gianni Caminato, cioè su un cambio della dieta alimentare verso un maggior consumo di carne in giro per il mondo, soprattutto dei paesi emergenti, porta la produzione di mais ad avere una richiesta massiccia sia sul versante dei biocombustibili sia sul versante dei mangimi. Quindi diventa una materia appetibile che negli ultimi anni, negli ultimi mesi sicuramente ha avuto un aumento importante. Aumento di produzione, nel 2010 abbiamo avuto una produzione record per quanto riguarda il mais, contemporaneamente c'è una crescita impressionante dei consumi. Quindi da questo punto di vista c'è un problema che aumenta la produzione ma aumentano maggiormente i consumi, si riducono le scorte e di conseguenza aumenta il prezzo, quindi vi è un problema soprattutto per gli allevatori che hanno visto negli ultimi mesi aumentare di parecchio la spesa sulle materie prime per i mangimi, mentre a fronte di una distribuzione, come veniva ricordato prima, dove non vi è un aumento significativo per i consumatori. Quindi questo significa che c'è un margine molto stretto da parte di un settore agricolo molto importante come quello degli allevatori. Nardone, quali altri settori come agricoltori guardate con preoccupazioni per le possibili ricadute, non tanto ovviamente sulla questione della remunerazione ai vostri associati, ma anche su ciò che riguarda possibili ricadute sulle abitudini di consumo, quindi anche alle spese delle famiglie? Sicuramente assistiamo a un calo da parte delle famiglie di consumi di ortofrutta, che è un problema anche dal punto di vista della dieta e del miglioramento della dieta alimentare delle persone, insomma di una produzione alimentare mediterranea come quella dell'ortofrutta, che ci preoccupano un poco. E questo secondo lei è riconducibile a che cosa? Al fatto che per esempio al supermercato questi generi costano troppo? Insomma, voi lo hanno fatto anche, avete organizzato la distribuzione, sicuramente c'è un meccanismo perverso che non quadra, prezzi troppo bassi ai produttori e prezzo troppo alti ai consumatori, nel mezzo c'è qualcosa che non ci convince. E lo so, la tematica della filiera, Gianni Caminato, anche qua l'abbiamo affrontata 2 miliardi di volte, è un male storico. Diffuso, vecchio e storico, che non si risolve, però poi la Federdistribuzione, so già Stefano Crippa che mi dirà che tutti gli aumenti possibili ed immaginabili, la larga distribuzione, la grande distribuzione, li ha assorbiti come poteva. Non si capisce dove avviene questa moltiplicazione non tanto dei pani e dei pesci ma dei prezzi in questa situazione. Caminato, allora, mister Prezzi l'ho incontrato ogni tanto, che tipo di situazioni gli state rappresentando? No, non lo incontriamo proprio momento? Per niente, molto bene. No? Cioè questo... Chi ci ascolta forse lo saprà, esiste il Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito di quel palazzo c'è anche Mr. Prezzi. Il garante dei prezzi, che si chiama così. Il garante appunto per la sorveglianza dei prezzi. Era stato programmato mesi fa un incontro che poi è scivolato e non abbiamo ancora ricevuto. Adesso non perché gli si debba andare a raccontare dell'aumento del grano, comunque esiste, però comunque un sito, comunque insomma, cioè proprio anche stamattina me lo sono portato con me, insomma, la pagina. Sui carburanti c'è un certo tipo di lavoro che fa il Ministero dello Sviluppo Economico e il garante dei prezzi, però diciamo che noi associazioni di consumatori siamo molto insoddisfatte, ma perché, come dire, non si fa tutto quello che si dovrebbe fare, insomma, cioè si potrebbe mettere in campo veramente delle verifiche serie e opportune del sistema della formazione dei prezzi. Stiamo parlando dell'agroalimentare, ma vorrei dire anche di certi servizi, insomma, certe situazioni in questo paese, insomma. E quindi, come dire, insomma, noi vorremmo che il servizio, visto che è un servizio pubblico, fosse più efficiente e più efficace. E infatti, quando c'era l'altro mister Prezzi, Antonio Lirosi, noi l'abbiamo avuto tante volte ospite della nostra trasmissione, c'era anche proprio una politica di comunicazione molto diversa rispetto a quella attuale. Ce ne dispiace molto, perché ci piacerebbe far confrontare i nostri ascoltatori anche con questa figura. Allora, Stefano Crippa, siete stati richiamati in causa di nuovo sulle possibili sulla questione legate al prezzo dell'ortofrutta, al banco del supermercato, alla filiera inefficiente e quant'altro. Oggi il punto della discussione qual è? Ma il discorso della filiera è un discorso eterno che, come detto prima, non arriva mai a un punto finale. Però io credo che sia invece un tema da affrontare in maniera molto seria, perché abbiamo parlato oggi tanto di quello che succede a livello internazionale e sembra quasi che la soluzione debba per forza passare da prese di decisione che avvengono sempre al di fuori dei nostri confini, al di fuori di quello che possiamo fare noi. Io credo che sostanzialmente noi avremo di fronte un futuro nel quale ci sarà sempre una questione di stress tra domanda e offerta, perché appunto la domanda continuerà ad aumentare e quindi il problema di far aumentare l'offerta sarà un problema reale. Ci saranno comunque impatti degli effetti climatici che purtroppo, come abbiamo visto negli ultimi anni, saranno sempre maggiori, e anche la speculazione avrà un ruolo. Quindi questo discorso della volatilità dei prezzi delle materie prime elementari sarà un tema sempre più dibattuto, e quindi tutti gli attori dovremo affrontare. Esatto, allora io devo salutarvi perché è terminato il tempo a mia disposizione. Non sono riuscita ad affrontare un caso che era affrontato ieri dalla stampa, il riso anche a prezzi record, c'è l'incognita dell'Unione Europea di aiuti che potrebbero essere rivisti a questo settore, ma magari ci ritorniamo in un'altra occasione. Grazie a Maurizio Mazziero, Ivan Nardone, Gianni Cavinato e Stefano Crippa per essere stati con noi. Salvadanaio come sempre torna domani. Buona giornata a tutti.